Cari fratelli e sorelle, accanto alla figura di Giacomo il Maggiore, figlio di Zebedeo, sul quale abbiamo parlato mercoledì scorso, nei Vangeli compare un altro Giacomo, che viene detto il Minore. Anch'egli fa parte delle liste dei dodici apostoli scelti personalmente da Gesù e viene sempre specificato come figlio di Alfeo. Egli è stato spesso identificato con un altro Giacomo, detto il Piccolo, figlio di una Maria, che potrebbe essere la Maria di Cleofa, la quale, secondo il quarto Vangelo, stava ai piedi della croce insieme alla madre di Gesù. Anche lui, anche questo Giacomo il Piccolo, era originario di Nazaret e probabile parente di Gesù, del quale alla maniera semitica viene detto fratello. Di quest'ultimo Giacomo, il libro degli Atti sottolinea il ruolo preminente svolto nella Chiesa di Gerusalemme. Nel Concilio Apostolico l'ha celebrato dopo la morte di Giacomo il Maggiore, affermò insieme con gli altri che i pagani potevano essere accolti nella Chiesa senza doversi prima sottoporre alla circoncisione. San Paolo, che gli attribuisce una specifica apparizione del risorto, nell'occasione della sua andata a Gerusalemme, lo nomina addirittura prima di Cefa Pietro, qualificandolo colonna della Chiesa di Gerusalemme al pari di Pietro. In seguito, i giudeo-cristiani lo considerarono loro principale punto di riferimento. A lui viene pure attribuita la lettera che porta il nome di Giacomo ed è compresa del canone neotestamentario. Egli non vi si presenta come fratello del Signore, ma come servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Tra gli studiosi si dibatte la questione dell'identificazione di questi due personaggi dallo stesso nome, Giacomo figlio di Alfeo e Giacomo fratello del Signore. Non vorremmo adesso entrare in queste discussioni e, dato il grande caldo, vorrei limitarmi a un solo punto, il resto si può leggere nell'Osservatore Romano. L'eredità più importante lasciataci da San Giacomo è la lettera che reca il suo nome. Nel canone del Nuovo Testamento questa lettera occupa il primo posto tra le cosiddette lettere cattoliche, cioè lettere destinate non a una sola chiesa particolare, Roma, Efeso, eccetera, ma a molte chiese. Si tratta di uno scritto assai importante che insiste molto sulla necessità di non ridurre la propria fede a una pura dichiarazione verbale o astratta, ma di esprimerla concretamente in opere di bene. Tra l'altro, San Giacomo in questa lettera ci invita alla costanza nelle prove gioiosamente accettate e alla preghiera fiduciosa per attenere da Dio il dono della sapienza, grazie alla quale congiungiamo a comprendere che i veri valori della vita non stanno nelle ricchezze transitorie, ma nel saper condividere le proprie sostanze con i poveri e bisognosi. Così la lettera di San Giacomo ci mostra un cristianesimo molto concreto e pratico. La fede, così ci dimostra, deve realizzarsi nella vita, soprattutto nell'amore del prossimo e particolarmente nell'impegno per i poveri. Su questo sottofondo è poi anche da vedere la frase famosa: come il corpo senza lo spirito è morto, così la fede senza le opere è morta. A volte questa dichiarazione di San Giacomo è stata contrapposta alle affermazioni di San Paolo, secondo cui noi veniamo resi giusti da Dio non in virtù delle nostre opere, ma grazie alla nostra fede. Tuttavia, le due frasi apparentemente contraddittorie, con le loro prospettive diverse, si completano in realtà, se ben interpretate. San Paolo si oppone all'orgoglio dell'uomo che pensa di non aver bisogno dell'amore di Dio che ci previene. Si oppone all'orgoglio di autogiustificazione senza la grazia semplicemente donata e non meritata. San Giacomo invece parla delle opere come il frutto normale della fede. L'albero buono produce frutti buoni, dice il Signore, e ripete San Giacomo, e lo dice a noi. Da ultimo, la lettera di San Giacomo ci esorta ad abbandonarci alle mani di Dio in tutto ciò che facciamo, pronunciando sempre le parole: se il Signore vorrà. Così egli ci insegna a non presumere di pianificare la nostra vita in maniera autonoma e interessata, ma a fare spazio all'imperscrutabile volontà di Dio, che conosce il vero bene per noi. In questo modo San Giacomo resta un sempre attuale maestro di vita per ciascuno di noi.